24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 18 minuti e 30 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino di questo lunedì 9 marzo. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti coloro i quali ci ascoltano, un saluto particolare ovviamente alle famiglie, alle prese con il cambio di vita. 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci già ce le state mandando da questa mattina presto in abbondanza per dirci un po' come la pensate, anche come state vivendo queste ore. Cara Maria, vuoi darci un occhio, sì, sull'estero? Consueto sguardo fuori dal nostro ombelico, giusto per avere un'idea di come si stanno comportando non i nostri vicini, ma i media che li raccontano. Ma per darvi un'idea, il Times questa mattina apre su una questione che riguarda un chairman, una questione che riguarda presunti casi di islamofobia, e poi ovviamente qual è il secondo titolo? Il secondo titolo è l'Italia, perché non è detto che negli altri paesi non si parli di coronavirus, se ne parla, e come? Ma se ne parla solo per citare il caso italiano, non per parlare dei fatti loro. Per darvi un'altra idea, Le Figaro ha un titolo a tutta pagina, quarantena in Italia, poi annuncia sì che anche la Francia indurisce le misure, ma non dà in nessun modo notizia in prima pagina né del fatto che i morti hanno superato i 19 decessi ci sono stati, né che i contagiati ufficialmente a questo punto hanno superato il migliaio, quindi è stata superata la soglia psicologica dei 1000. Questo Le Figaro non lo mette in prima pagina, e naturalmente anche Le Monde parla di coronavirus in prima pagina e dice che le scuole si preparano a chiudere anche in Francia, ma anche Le Monde non dà le cifre né dei decessi né dei contagiati in Francia. Quindi vediamo che per esempio due paesi, la Gran Bretagna, che non è a noi vicina, ma la Francia sì è vicina ed è il paese europeo col più alto numero di contagiati finora dopo l'Italia, tuttavia mantiene almeno per ora un ferreo controllo, nel senso che non dà né i dati che riguardano la Francia, punta tutto sui dati che riguardano l'Italia. Matteo Mauri, vice ministro dell'Interno del Partito Democratico, buongiorno, benvenuto Mauri, eccoci. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti. Allora Mauri, è stata un po' confusa, no, questa vicenda, la gestazione di questo decreto, e soprattutto avete mandato, mi pare, i cittadini un po' in confusione, soprattutto nella prima fase tra sabato e domenica. Ma insomma, quando si gestiscono situazioni così nuove e così delicate, è possibile anche che un po' di confusione si crei, ma mi sembra che tra il decreto e poi anche tutte le ordinanze di ieri si sia rimessa in ordine la questione, e soprattutto si siano date le indicazioni giuste ai cittadini. Adesso è necessario che ognuno faccia la propria parte, però. Maria, prego. Ecco, sicuramente i cittadini devono fare la loro, e qui a 24 Mattino l'abbiamo già detto, lo ribadiamo, non c'è da fare i furbi, bisogna spiegarlo sia ai nostri figli che magari pensano che uscire la sera sia normale, che ai genitori che magari pensano che sia normale andarsene in montagna e stare attaccati uno all'altro in attesa di sciare. Però le voglio chiedere anche questo, Mauri, che effetto le fa da politico in trincea vedere che ci sono stati probabilmente dei ministri del governo che hanno fatto trapelare quella che era ancora una bozza non approvata, e questo si immagina per interessi personali, perché ce l'hanno con Conte. A queste persone lei che cosa dice? Guardi, io sinceramente non so come sia uscita la bozza, anche perché, come lei sa bene, quella bozza era in mano a tante persone, perché normalmente deve essere condivisa con tanti, e di conseguenza io personalmente faccio fatica a credere che possa essere stato un ministro. Sicuramente è stato qualcuno delle se ci pensa bene, centinaia di persone, pensi a tutto l'apparato di governo, tutti gli apparati delle amministrazioni locali, delle regioni, e di conseguenza lì sicuramente c'è stato un buco, che poi è stato alimentato anche dal fatto che, avendo a disposizione tutti gli strumenti come WhatsApp e social network, la cosa è girata molto velocemente. Purtroppo questa è una cosa con cui si deve fare i conti, perché non vale solamente per questo caso, vale anche per tanti altri casi, per cui non credo assolutamente che ci sia una ragione politica dietro. Sicuramente questa cosa ha creato un po' di caos, perché quando si prendono queste iniziative è meglio che tutto venga nel minore tempo possibile. Siccome la questione coronavirus andrà avanti ancora e dovrete prendere altre decisioni, probabilmente altrettanto serie e severe, che cosa, lei è al Viminale, quindi qualche strumento di controllo ce l'avete, che cosa pensa che dovrete fare per evitare che si ripeta questa fuga di notizie in un momento molto delicato? E appunto, non mi pare che nei paesi che ho citato prima le decisioni vengano condivise così. Ieri Macron ha fatto un summit al Ministero della Difesa, per quel che ho visto le TV ne hanno fatto vedere 2 secondi e non ci sono state fughe di notizie o WhatsApp in giro. Quindi che cosa pensate di fare perché arrivi una voce sola in una condizione così insomma seria per il nostro paese? Guarda, la sua osservazione è corretta, però c'è da dire una cosa, che l'Italia, diversamente dagli altri paesi, lo diceva lei correttamente prima, ha scelto la linea della trasparenza e della condivisione, che secondo me sono 2 valori assoluti. Uno, perché non si può governare le cose solo dal centro, qui serve un rapporto diretto, una collaborazione piena da parte di tutte le regioni e gli enti locali. E dall'altro, perché noi stiamo giocando questa partita in una stanza trasparente, in modo che tutti possano vedere quello che succede. E guardi che quello che sta accadendo in Francia, in Germania e da altre parti è la sottovalutazione da parte delle istituzioni e da parte dei cittadini di conseguenza della situazione. Per cui secondo me è meglio rischiare un po' in termini di uscita di informazioni, ma non perdere nulla sulla trasparenza, perché il rapporto con i cittadini è costruito anche sulla base della fiducia reciproca e della trasparenza. Per cui secondo me noi dobbiamo insistere su questo punto, magari corriamo qualche rischio in più, ma il rapporto con i cittadini deve essere trasparente. Veniamo a quelle che sono le prescrizioni contenute nel decreto. Lo abbiamo già raccontato, c'è un'estensione di una zona che non è più di fatto una zona rossa, ma quella che viene definita una zona arancione, perché la porosità è maggiore, per essere chiari. Molti ascoltatori ci chiedono, Mauri, ma perché non avete previsto degli espressi divieti? Le faccio un esempio, il fatto che ci si possa muovere, uscire, entrare da queste zone arancioni per comprovati motivi di salute e di lavoro, ma il fatto che basti un'autocertificazione, insomma, non è una limitazione forte a quello che si dovrebbe fare per limitare la diffusione? Sì, allora diciamo il termine tecnico giusto è zone a controllo rafforzato, contenimento rafforzato. Questo significa sostanzialmente che non sono bloccate così come era bloccato Codogno piuttosto che Vo. Però guardi, è abbastanza inevitabile, nel senso che o noi chiudevamo completamente quelle zone come se fossero dei paesini, cosa obiettivamente complicata e che avrebbe contribuito a bloccare tutto il paese, anche perché stiamo parlando di alcune delle zone che dal punto di vista economico, del numero delle persone, sono le più importanti del paese, oppure sceglievamo la strada che abbiamo scelto, che a mio modo di vedere è quella corretta, e cioè grande rigore, perché le parole anche nel decreto sono pietre, e poi anche dei controlli molto forti, perché voi avete visto l'ordinanza del Ministero degli Interni di ieri che usa dei criteri di controllo e anche di pene per chi contravviene le regole, che sono assolutamente forti, cioè sono assolutamente dei divieti, però non si impedisce a chi per lavoro in maniera comprovata si sposta o per casi eccezionali di poterlo fare, perché altrimenti, per dire, tutto il sistema di trasporto delle merci del paese che rifornisce le aziende, ma anche il negozio sotto casa, che non è che viene dalla stessa regione, viene anche da altre regioni, si sarebbe completamente bloccato. Secondo me questo è un punto di equilibrio molto avanzato, molto rigoroso, ma giusto, cioè è quello che va nella direzione corretta, anche perché non dimentichiamoci che nel frattempo in questo paese ci sono anche presidenti di regione che dicono: ah, ma io non ci voglio stare dentro questa zona, voglio stare fuori. Per cui a me sinceramente sembra questo un punto di caduta utile. Maria. Mauri, facciamo un esempio pratico per i tanti che vivono in città diverse. Un romano che ha la fidanzata a Milano e che vive questo rapporto a distanza, può chiedere la giustificazione per andarla a trovare nel fine settimana o è sconsigliato che si muova? Altro caso. Un napoletano che ha la mamma anziana a Milano e che vorrebbe andarla a trovare per aiutarla, insomma, a vivere questa difficoltà, è giustificato o no? Allora, no, non sono condizioni giustificate, almeno che non ci siano delle forme gravi di malattia per quanto riguarda il secondo caso. Nel primo caso, diciamo che l'amore dovrebbe giustificare tutto, però in questo caso dovrebbe prevalere l'amore per tutte le persone, non solamente per la propria fidanzata o proprio fidanzato, e per cui si deve fare a casa. Ci sono tanti rapporti a distanza, se il rapporto è solido, secondo me regge. Allora, a prescindere dalla posta del cuore, per così dire, Mauri, ci dica questo, c'è un tema in queste ore che ha a che fare, ci sono due temi, mi par di vedere, che hanno a che fare entrambi con la responsabilità individuale dei cittadini italiani. Il primo è questa fuga da nord verso sud, che, ricordiamolo bene agli ascoltatori e a tutti quanti, non è che è iniziata oggi, non è che è iniziata sabato sera col decreto. Sabato sera c'è stata l'esplosione, ma sono settimane ormai che le persone che vivono al nord e che sono di origine del mezzogiorno si stanno spostando verso sud, e quindi anche gli interventi un po' dei presidenti di regione, delle ASL, sulle quarantene adesso hanno senso e non hanno senso, per così dire. Poi ne parleremo domani, perché domani parliamo di sud. E dall'altra parte tutta questa gente che si vede in giro, insomma, le foto della darsena di Milano piena di gente, con la gente che beve, che mangia tranquillamente all'aperto, tutti vicino uno all'altro. Dall'altra parte anche una foto ci ha mandato un'ascoltatrice stamattina, la darsena a Rimini, stessa situazione. E là non c'è modo di intervenire, Mauri? La verità è che siamo di fronte a una schizofrenia dei comportamenti, cioè c'è chi ha paura e scappa e c'è chi va in spiaggia di fianco uno all'altro, oppure in centro a Milano o sui Navigli. Secondo me bisogna tenere il giusto punto, e cioè non c'è bisogno di scappare, ma è necessario non usare dei comportamenti che mettono a rischio se stessi, ma soprattutto gli altri e soprattutto gli anziani. Perché guardate, qui il punto è uno solo: lo Stato non è fatto solo dalle istituzioni, lo Stato è fatto dalle istituzioni e dai cittadini, e la responsabilità di chi amministra è la stessa del singolo cittadino. Qui serve una collaborazione completa e senso di responsabilità, che non hanno dimostrato quelli che si sono affollati ieri e che non hanno dimostrato quelli che sono andati via dalle zone a contenimento rafforzato, mettendo a rischio potenzialmente la salute di tutti. Cioè, allora, bisogna chiedere alle istituzioni tanto, io sono assolutamente d'accordo, però ognuno ci deve mettere del suo, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Gli appelli che ci sono stati ieri, li avete visti, no, degli artisti, eccetera, secondo me sono molto positivi, molto intelligenti, esattamente per questo. Cioè, il tema è: se non potete farne a meno e non siete autorizzati, state a casa. Questo è il messaggio che deve passare. Ma la vera domanda è: non è meglio il pugno duro su questo, Mauri? Ma guardate che il pugno duro c'è. Guardate che dentro il decreto, dentro l'ordinanza, il pugno duro c'è. Le cose sono molto chiare. Cioè, chi va contro i divieti va nel penale, cioè rischia una condanna penale anche pesante. Questo lo voglio dire in maniera chiarissima, in modo che sia evidente a tutti e nessuno possa dire: ah, io non lo sapevo. Così come l'ordinanza dei presidenti, quelle restrittive, cioè ti metto in quarantena se torni, abbiamo chiarito che se uno si sposta per lavoro questo non vale, evidentemente. Ma quello che è di una regione del sud, che si è trasferito al nord, lavora al nord, ha famiglia al nord, e in questa situazione prende armi e bagagli e se ne torna a casa sua, al sud, piuttosto che il lombardo o il milanese che c'è la seconda casa in Sardegna e scappa con la famiglia, e invece quelli sono comportamenti da censurare, e i presidenti hanno detto: volete venire, andate in quarantena obbligatoria. A me sembra giusto, anche perché bisogna disincentivare le partenze e mettere al sicuro quelle regioni che vedrebbero un afflusso molto maggiore di persone e non hanno la struttura sanitaria dimensionata per fronteggiare un rischio legato a così tanta gente che viene tra l'altro da zone obiettivamente più a rischio. Maria. Per quanto riguarda gli spostamenti in aereo, ovviamente chi ha motivi di lavoro esibisce l'autocertificazione e può partire da Milano o dal Veneto, dagli aeroporti veneti, e andare anche all'estero per questioni di lavoro. È così? Sì, e arrivare anche per questioni di lavoro. Sì, partenze e arrivi. E arrivare. Invece, per chi non è mosso da questioni di lavoro, come funziona? Facciamo il caso di una coppia... Deve stare a casa, non devono partire. Ecco, no, questo deve essere chiaro. Non bisogna spostarsi per motivi che non siano legati alle cose che si è detto: lavoro, urgenze particolari, motivi sanitari. Bisogna starsene a casa. Quanti uomini metterete in campo, Mauri, per i controlli? Tutti quelli che ci sono, compreso, se necessario, anche l'esercito per i controlli. Abbiamo un ascoltatore, una domanda di un ascoltatore, via. Sto partendo dal Friuli, abito in Friuli, per andare a Castelfranco Veneto, che è una sede di Castelfranco Veneto, perché io negli ultimi 2 mesi ho lavorato nella sede di Castelfranco Veneto. La sede principale è a Udine. La sede ieri mi ha chiamato e mi ha detto che devo andare a Castelfranco a prendere il computer e andare su a lavorare nell'altra sede, perché a Castelfranco ormai è in zona rossa. Ma io mi domando, ma se ho lavorato 3 mesi a Castelfranco, prima di andare su a Udine, che non è una zona rossa, non dovrei fare la quarantena? Ha capito che casino, la dico proprio brutale, Mauri, eh? Cioè come vanno le cose, insomma, è complicato, no? È complicato per i cittadini capire come... No, assolutamente, infatti bisogna essere di una chiarezza da palestiana. In questo caso non ci sono problemi, nel senso che lui deve andare per lavoro, se lo autocertifica, poi aggiungo io, ma ci metto del mio, se il suo datore di lavoro gli fa anche una bella letterina che lui si tiene in tasca, anche meglio. Nel momento in cui dovessero fermarlo, spiega la ragione e poi si reca presso un nuovo posto di lavoro. Non c'è nessun problema da questo punto di vista, perché è in giro per lavoro. Andare a prendere il computer, no, però, in Mauri, un ufficio... L'ascoltatore, Mauri, mi perdoni, l'ascoltatore poneva anche un'altra domanda. Diceva, non sarà bene che io faccia i 14 giorni di quarantena che occorre fare perché magari ho contratto il virus e ancora non lo sappiamo? Questa è anche l'altra domanda. No, questo non è previsto perché se lui non ha i sintomi e lui è in giro per lavoro, lo può fare. Poi è evidente che c'è un elemento di rischio in tutto, ma c'è un elemento di rischio anche che viene da per strada e che ti cade un vaso sulla testa. Qui stiamo abbassando al minimo possibile, certo, il livello di rischio. No, in quel caso non lo deve fare. Allora, Mauri, io non so se lei è la persona giusta per rispondere a questa domanda, però siamo tutti un po' stupiti dal fatto che sia stata riaperta la zona rossa di Codogno, e anche il professor Galli del Sacco di Milano dice, secondo me è stato un errore quello. Ma guardi, la verità è che per i dati che abbiamo a disposizione, in questo momento le vecchie zone rosse sono sicure o insicure, dipende dai punti di vista, esattamente come il resto del territorio che li circonda, perché se ci pensate sono quelle che sono state sottoposte più di qualsiasi altro posto a controlli, per cui noi in questo momento sappiamo perfettamente chi sono gli infettati, e gli infettati sono o a casa propria e non possono uscire, oppure sono in ospedale, per cui quelle zone sono le più controllate in assoluto. E di conseguenza chi lì non ha sviluppato il virus è nella stessa percentuale di quelle delle zone di fianco, per cui il rischio potenziale che uno di Codogno adesso a lui venga di nuovo il contagio, prenda il contagio, è esattamente uguale a quello delle altre zone della Lombardia. Per cui non c'è un rischio della peste, perché sono super controllate quelle. Partendo invece da quello che è il, come dire, l'arrivo al sud, no? Forse è interessante che lei chiarisca bene a che cosa va incontro chi decide senza un motivo valido, quindi senza un motivo di lavoro o di problemi seri dei familiari, di prendere un treno dalle zone arancioni e andare al sud. A che cosa andrà incontro? Nel senso che abbiamo letto che ci saranno dei controlli della temperatura, chi avesse una sintomatologia che può essere ricondotta al coronavirus sarà invitato a fare la quarantena, a questo punto a casa dei parenti, che non saranno felicissimi di avere uno in quarantena a casa. Com'è la situazione? Possiamo spiegarlo bene ai nostri ascoltatori? Se uno incorre in capo in un controllo e non ha le motivazioni quelle previste che abbiamo detto prima, può incorrere in due reati che sono entrambi penali, o il 650, fino a una condanna fino a 3 mesi, oppure se gli viene riconosciuto l'attentato a salute pubblica, cosa non scontata, fino a 3 anni. Quindi stiamo parlando di questa cosa qua. La ringrazio, grazie a Matteo Mauri per aver risposto alle nostre domande, non le abbiamo esaurite naturalmente, ma insomma ci sarà tempo, poi di questi temi torneremo a parlare più o meno in tutta la nostra programmazione nell'arco della giornata. Matteo Mauri, Vice Ministro dell'Interno, grazie per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro. Buona giornata, buon lavoro. Una pausa, ci ritroviamo subito dopo e con Antonio Misiani, Vice Ministro dell'Economia, affronteremo l'aspetto economico. A tra un attimo. Mattino. E siamo con Antonio. No, non siamo con Antonio Misiani perché è caduta la linea in questo momento con Antonio Misiani, Vice Ministro all'Economia. Adesso vediamo un attimo se riusciamo a ripescarlo. Tornerà, di certo. Tornerà, sì. No. Adesso torna. È una giornata importante quella, questa anche una settimana importante anche sul fronte economico. Tra l'altro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilasciato un comunicato proprio nella mattinata di oggi, un quarto d'ora fa, 20 minuti fa, nel quale annuncia che appunto ci saranno prese delle misure importanti. Una settimana che si preannuncia non facile anche per i mercati, i futures sugli indici sono molto pesanti in questo momento e si prospetta un'apertura particolarmente negativa per la borsa italiana. Abbiamo ripescato Antonio Tutti Misiani. Tutti fanno previsioni, Simone, su come cambierà l'economia del mondo, non solo quella italiana. Certamente. Dopo il coronavirus è chiaro, c'è un grande ripensamento su tutto. Sì, è chiaro che quando sei dei mercati. È chiaro che quando sei l'anello un po' più debole della catena è tutto più difficile. Antonio Misiani, Vice Ministro dell'Economia, eccoci Misiani. Buongiorno a voi. Prego Maria. Buongiorno Vice Ministro. Senta, io vorrei partire da una cosa che interessa tanti italiani con un mutuo di prima casa. Oggi il Sole 24 Ore dà appunto notizia che ci sarà un budget da 25 milioni per sospendere i mutui di prima casa fino a 18 mesi. So che state predisponendo una serie di misure, ora ce le elencherà, ma volevo cominciare da questo perché il mutuo è una cosa che mette tanta ansia a chi in questo momento, penso per esempio alle partite IVA che magari ne hanno appena fatto uno, una giovane coppia che magari ne ha appena fatto uno e dice come lo pago? Beh, guardi, noi stiamo lavorando per una moratoria molto ampia dei prestiti alle imprese e alle famiglie, perché riteniamo che garantire la liquidità, in particolare alle imprese, sia un punto chiave in questa fase in cui gli effetti economici del coronavirus rischiano di essere particolarmente pesanti. Stiamo dialogando con la Banca d'Italia e stiamo immaginando anche forme di garanzia pubblica che aiuti il sistema bancario a sostenere nel migliore dei modi possibili questo intervento che sarà molto ampio per il suo impatto. Cioè garanzia pubblica per mutui e finanziamenti, Misiani? Una parziale garanzia pubblica la stiamo studiando per assistere questa moratoria sui mutui alle imprese e alle famiglie. E questo è già un elemento importante, non è il solo naturalmente Misiani, perché quello che si prospetta di qui a un tempo insomma, relativamente breve, o meglio in alcune parti del paese è già così, è di fatto un blocco quasi completo dell'attività economica. Guardi, noi abbiamo chiesto al Parlamento uno scostamento del deficit che è di circa 7 miliardi di euro, però il punto di fondo è uno: il governo è intenzionato a fare tutto quello che servirà per fronteggiare gli effetti economici del coronavirus. Se serviranno cifre superiori, chiederemo al Parlamento scostamenti su cifre superiori. Si parte dalle cose da fare, dalle risorse che è necessario mettere in campo sugli ammortizzatori sociali, sulla moratoria dei mutui, sui meccanismi di indennizzo per i settori maggiormente colpiti, e poi si va in Parlamento, cosa che faremo nei prossimi giorni, per costruire di conseguenza la manovra economica che serve al Paese. Ma il punto oggi è fare tutto quello che è possibile. Maria. Senta Misiani, proprio pensando al Parlamento, lei che impressione ha di come sta reagendo l'opposizione? Perché ci sono state, come dire, reazioni diverse, vedo delle differenze di atteggiamento tra Salvini, che oscilla da un lato dando disponibilità, e dall'altro però attaccando. L'intervista al País ha fatto molto rumore anche all'estero, in cui attaccava l'operato del governo. Poi c'è Giorgia Meloni, che anche lei sembra disponibile. A oggi lei pensa che l'opposizione vi darà l'ok per quello che chiedete, per aiutare le imprese e le famiglie italiane? Vorrà essere coinvolta in qualche modo? Come stanno le cose? Ma guardi, penso che agli italiani oggi interessi poco un commento sulle articolazioni interne all'opposizione. Credo che gli italiani si aspettino dalla maggioranza, così come dalle forze di opposizione, il massimo di responsabilità e di cooperazione possibile. Io registro che tutte le forze di opposizione si sono dette disponibili a votare in Parlamento un aumento del deficit per finanziare un'ampia manovra anticrisi. Mercoledì dovrebbe esserci il voto sia alla Camera che al Senato, e noi ci aspettiamo un atteggiamento conseguente alle dichiarazioni. Il governo, nella persona del Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia, tutti noi siamo disponibili al massimo di confronto, come stiamo già facendo, sia con le forze economiche e sociali che con le forze di opposizione, per costruire assieme le scelte fondamentali per mettere in sicurezza l'economia del Paese. Misiani, allora, abbiamo parlato di ammortizzatori sociali, abbiamo parlato di imprese e abbiamo parlato spesso anche degli aiuti che possono arrivare in generale dal lato dei mutui, naturalmente un po' a tutte le famiglie e spesso ai lavoratori dipendenti. C'è un tema gigantesco che riguarda le partite IVA e i lavoratori autonomi di questo paese, che già di loro hanno un po' meno tutele degli altri e che adesso però si trovano in una situazione di azzeramento del fatturato. Su questo fronte avete previsto degli interventi specifici? Ci state ragionando? Non ci state ragionando? Ci stiamo ragionando, tenendo conto della complessità di un paese in cui gli ammortizzatori sociali sono previsti per i lavoratori dipendenti, ma non per tutti i lavoratori dipendenti, e questo pone un problema di estensione attraverso la cassa in deroga, il fondo di integrazione salariale. E anche il tema delle partite IVA a partire dai settori maggiormente coinvolti. Il tema per questa parte del mondo del lavoro... Per esempio, Misiani, a che settori pensa? Ci sono, come noto, settori come il turismo, la logistica, i trasporti, tutto quello che è connesso con la dimensione internazionale dell'economia, il settore culturale, tutto quello che è impattato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che come noto rallenta o blocca intere attività economiche nel Paese. Ma sono i settori più disparati, penso anche al settore educativo, a tante attività che oggi sono inevitabilmente bloccate per ragioni di sicurezza sanitaria. E che tipo di interventi immaginate? Noi stiamo ragionando sull'estensione di una moratoria nel pagamento di tasse e contributi. Estensione della moratoria. Senta Misiani, i problemi non sono solo nostri, perché anche in Francia si parla apertamente di una grave crisi economica, la Germania ha forti problemi, forse soltanto i paesi del nord Europa, beati loro, non sono così preoccupati come per ora siamo noi. Romano proprio sul suo 4 ore è tornato a rilanciare l'esigenza di Union Bond. Allora abbiamo dei problemi con il collegamento con Maria Latella, adesso vediamo di ripescarlo. Misiani, la domanda di Maria Latella era sostanzialmente sugli Eurobond, l'ipotesi di rilancio degli Eurobond. Da questo punto di vista Bruxelles ci sente, non ci sente, gli altri stati ci sentono, non ci sentono? Ma noi stiamo sollecitando molto le istituzioni europee e gli altri governi dell'Unione per una manovra di stimolo economico antirecessivo simultanea e coordinata. Come diciamo da giorni, un conto sono le singole manovre adottate a livello nazionale che possono arrivare fino ad un certo punto, un altro conto e molta più forza può derivare da una manovra concertata dai paesi europei. Il virus non si ferma alle frontiere, non si ferma al Brennero piuttosto che a Ventimiglia. Purtroppo l'epidemia sta via via crescendo anche negli altri paesi europei e gli effetti economici seguono la diffusione dell'epidemia. Credo che sia necessario la massima consapevolezza possibile anche negli altri paesi dei rischi economici che stiamo correndo tutti, con una reazione all'altezza della situazione, che deve essere innanzitutto sul versante della politica fiscale. Certo, Misiani, che se uno dovesse ragionare sulla base delle prime reazioni che portavano a tenersi ciascun paese le proprie mascherine, diciamo che nutriamo poco ottimismo sull'ipotesi di un'azione congiunta. Lei pensa che invece ci sarà questa azione congiunta europea sull'economia? Ma guardi, nel giro di pochi giorni sono cambiate tante cose nel nostro paese e credo che cambieranno tante cose anche nel resto d'Europa. Lo ripeto, se qualcuno si illude di poter contenere entro i propri confini un fenomeno che ha dimensione globale, non ha capito nulla di quello che sta accadendo. Misiani, sempre a proposito degli autonomi, molti ci stanno scrivendo, artigiani e non solo, diceva l'ipotesi di un'estensione della moratoria del pagamento di tasse e contributi. Sì, però, anche con forme di indennizzo, quindi non soltanto una moratoria. Ok, non solamente una moratoria. E forme di sostegno diretto le avete pensate o non le avete pensate? Anche penso per esempio anche a negozianti, ristoratori, anche a tutto questo mondo qua che sta soffrendo particolarmente. Ma noi stiamo discutendo con le organizzazioni di categoria, anche con quelle degli artigiani e dei commercianti, e costruiremo insieme a loro gli interventi più efficaci. Ripeto, partendo da quella che è la situazione italiana, che non prevede ammortizzatori sociali per una fetta significativa del mondo del lavoro, purtroppo. Maria, prego, abbiamo tempo per un'ultima domanda. Avete paura degli speculatori? Perché c'è sempre, no, chi in condizioni di difficoltà rapacemente si butta su un paese. Che notizie avete sul fronte di chi potrebbe speculare appunto nei mercati sulla situazione italiana? Ma guardi, le autorità di vigilanza sono da tempo allertate, prenderanno, ne sono convinto, le scelte più efficaci per limitare la speculazione sui mercati. È chiaro che ci si aspetta in tutto il mondo una giornata complicata sui mercati finanziari. Da questo punto di vista la chiusura di Tokyo fortemente negativa credo che sia un indicatore. C'è inevitabilmente un tasso di emotività o di rapacità, dipende dalle opinioni di alcuni operatori, però credo che al di là di quello che avverrà sui mercati finanziari, che viene monitorato costantemente da noi e dalle istituzioni coinvolte, noi dobbiamo concentrarci molto sull'economia reale e sugli interventi da mettere in campo nel giro delle prossime 48 ore. Abbiamo 10 secondi, Misiani. Andrebbero bloccate le vendite allo scoperto? Ma questa è una decisione che spetta alle autorità di vigilanza. Le sto chiedendo la sua opinione. Ma guardi, io credo che sia necessario mettere in campo tutti gli strumenti efficaci. Ci sono pareri diversi, a dir la verità, perché c'è chi ritiene che sia un'arma spuntata. La ringrazio, grazie. Lei è tra quelli. No, non ho un'opinione precisa in merito e non voglio interferire nella valutazione autonoma delle istituzioni di vigilanza. Grazie Antonio Misiani, Vice Ministro dell'Economia, per essere stato con noi. Cara Maria, ci risentiamo domani 8:20. Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Simone, a domani. E con tutti gli altri alle 6:30. Ciao.